pronto, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Sono molto bene, sono le 6.47, siamo già in registrazione. Ah, buongiorno a tutti. Questo programma di registrazione che stiamo sperimentando funziona e non avendo internet per qualche problema stiamo registrando la telefonata, che è una cosa meravigliosa, no? Buongiorno Paolina, come stai? Esatto, buongiorno, benissimo, molto molto entusiasta di questa telefonata, di questo programma che spero possa servire a tutti noi, sia un input in più, anche perché alzarsi presto, iniziare la giornata con queste idee o tips che noi cercheremo di trasmettere a tutti quanti quelli che ci ascoltano, mi entusiasma tantissimo. Tu? Sì, molto bene, molto bene. Poi inizieremo subito con la storia della nascita di questo podcast, che non si capisce come e dove andrà a finire, però volevo dire un attimo, innanzitutto fare un attimo il punto, no? Allora, questo podcast sarà sempre la mattina, che ci piace molto questa cosa della mattina presto, e è una condivisione che facciamo io e Paolina per scambiarci delle idee, per andare avanti, visto che siamo tutti e due giovani imprenditori e siccome lavoriamo in ambiti diversi ma con molte cose in comune, vogliamo condividere delle cose insieme e visto che lo dovevamo fare comunque ho pensato perché non registrarlo e metterlo a disposizione, così avremo anche il guadagno di poter ispirare qualcuno, che ne so, magari qualcuno piace, qualcuno no, e comunque noi ce lo possiamo comunque riascoltare almeno, no, durante la settimana, che dici Paoli? Meno c'è... Sì, sì. Visto che infatti, ci dimentichiamo. Stefano, te mi colpisci sempre perché doveva rimanere tra di noi, questa è stata un'idea tua, no, fare delle telefonate per supportarci, perché tante volte andare da soli è impegnativo. Allora mi è piaciuto molto quando mi hai chiamato e mi hai detto Paolina, perché non facciamo questo? E quando hai detto mettiamolo a disponibilità di tutti, mi hai sorpreso tantissimo e mi è piaciuto molto. Sappiamo già che servirà a qualcuno, a qualcun altro no, però il nostro intento attraverso questo podcast, alzarci presto al mattino, scegliere i temi da parlare, sappiate che lo facciamo con tantissimo amore sia per noi che soprattutto per voi. Sì, diciamo sì, che sono molto molto felice. Diciamo che questa cosa di registrare l'ho anche scelta come protezione, in modo che almeno non rischiamo di andare nel cazzeggio e di parlare solo dei cavoli nostri, no? Nel senso che almeno sappiamo che c'è qualcuno che potrebbe ascoltare, allora siamo quasi costretti a rigare dritto, ecco, questo è il senso, no? Quindi è un aiuto reciproco. Io volevo chiederti, sì, no? Come ti è venuto in mente farmi questa proposta? Ma guarda, sai benissimo che noi sono anni che facciamo fondamentalmente, no? Senza sì, avere uno schema, no? Che ci sentiamo, tu mi dici le tue idee, ciò che stai facendo e mi ispiri, io ti dico le mie e ti ispiro, tu mi chiedi una mano, te la do, eccetera, eccetera. Siccome credo molto che questa cosa... aveva bisogno di un'evoluzione, ovvero oltre che la chiacchiera tranquilla tra amici quando capita, penso che dargli un ritmo credo che sia importante, perché poi dopo le prime volte che forse c'è un attimo una fatica nel farlo, poi diventa un'abitudine, quando diventa un'abitudine poi diventa anche un appuntamento che aspetti, no? E pensa che bello poter dire che bello, oggi è venerdì o qualsiasi giorno sceglieremo, che oggi comunque è venerdì, sono le 6.51 del mattino, e pensa che bello quando poi diventerà un appuntamento fisso, no? Che sappiamo che se te devo dire delle novità per quanto riguarda il business o qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi cosa che a quest'ora viene in mente, no? Insomma, credo che sia, la vedo come una cosa bella da coltivare, ecco, come un piccolo bambino, una piantina che ne so, adesso ci mettiamo i semini e poi chissà cosa viene fuori quando la primavera fiorisce, no? Che bello, sì, sì, sì, grazie mille Stefano, infatti da quando ti conosco Ho capito bene cosa vuol dire l'amicizia supportata da una persona che comunque non sei solo l'amico che mi dice tutto sì, ma bensì l'amico razionale, motivo che mi aiuta ad andare avanti. Quindi ti ringrazio e ti ringrazio soprattutto perché hai avuto questa idea geniale di condividere con tutti tutto quello che noi stiamo facendo e sono sicura che questa iniziativa prenderà piede in un modo, vasto. Sì, diciamo che poi c'è anche l'altro aspetto etico e personale che io e te, anzi forse tu prima di me, hai messo, diciamo, la tua vita privata come si dice, visibile a Alla tutti, luce, no? sì. Ti sei aperta al mondo dando proprio tutta la tua vita privata come esperienza, no? Scrivendo il tuo libro Il volo dei colibrì. Secondo me quella è una cosa importante perché anch'io ho smesso di tenermi tutto per me e non mi importa più della privacy in questo senso, cioè anzi, sotto questo senso più ho sofferto, più ci sono cose oscure, più condividerle secondo me è importante perché a me in passato mi hanno sempre aiutato quelli che l'hanno fatto, non vedo perché io non debba farlo, no? Abbiamo sofferto tanto, abbiamo superato tanti ostacoli, tenersi lì per noi credo che sia boh, inutile, cioè sarebbe come aver sofferto invano, allora noi le diamo così almeno ce le togliamo di mezzo e qualcuno invece magari può veramente, boh, non lo so, secondo me potrebbe essere molto utile, anzi sono sicuro che è molto utile perché è così che funziona, no? Io sono d'accordo con te. No, poi la cosa, ecco, era partita facciamo sto mastermind, l'idea era del mastermind, no? Che vuol dire, non so cosa vuol dire, però si usa questo termine per un gruppo di pari che condividono le proprie idee in modo organizzato tutte le settimane, eccetera, eccetera. Però ho detto, cerchiamo 5-6 persone, poi ho detto, vedi, bisogna sempre, non funzionava, ho detto, ma perché non partire sempre, come al solito, dal piccolo? In questo caso non potevo partire da solo, come di solito faccio e come di solito consiglio, ma per il mastermind servono almeno due persone. E ho detto perché non partire dall'unica persona con cui so che già funziona, perché già lo facciamo, no? Che è Paolina. E dico, vabbè, allora partiamo da noi e poi chi ci ama, anzi, come dico io, chi si ama ci segua, no? Perché solo chi si vuole bene investe mezz'ora della propria mattinata, soprattutto alle 6 e tre quarti. Per fare due chiacchiere che sembrerebbe che non dà nessun risultato a breve termine, ma invece poi non è così. Cioè ci vuole tanta determinazione, giusto? Sì. Io sono d'accordo con te che tutto quello che noi facciamo va bene, c'è una parte che deve rimanere in privacy, un'altra però diamolo al mondo. Se Sì. rimaniamo con tutto quello che abbiamo sofferto, con quello che abbiamo vissuto, siamo egoisti, no? Perché la nostra esperienza, se la raccontiamo e qualcuno l'ascolta in modo attivo, può far tesoro e così evitare magari di subire le stesse cose che noi abbiamo subito. C'è chi ascolta in modo passivo e quindi non succede nulla, però noi, Stefano, io abbiamo deciso di raccontare al mondo storie. Io ho cominciato col libro e Stefano però adesso anche lui sta cominciando a raccontare le sue storie, finalmente, perché ti Finalmente, ricordi Stefano, eri sempre chiuso nelle tue cose, nel tuo angoletto. nessuno Sei un sapeva mai nulla, invece professionista, quando esatto, nell'inglese, però mancava quel qualcosa in più, no? E aprirti, raccontare le storie, per me è meraviglioso perché prima ci libera, poi a me, per quanto riguarda me, mi entusiasma molto sapere che la vita di una persona, come tu dici, partire dal piccolo può cambiare. Non c'è bisogno di arrivare a 100 o 200.000 persone perché se vogliamo aiutare qualcuno, noi possiamo cominciare con uno, due, tre e poi arrivare a tanti. Quindi partire dal piccolo, come questa telefonata con la condivisione di chi ci ascolterà. È importante partire. Tante persone mi hanno sempre criticato perché mi hanno detto: Paolina, ma non iniziare questo, non è pronto, non sei pronta, aspetta ad avere tutto preciso, tutto perfetto. In inglese dicono business is not perfection, is progression, Uguale, lo penso così in italiano, no? Il business, l'attività, l'inizio di un qualcosa, di un sogno, non è la perfezione, è dare il primo passo. Ecco, quindi Sì, ma io soprattutto. incoraggio a tutte le persone, se avete un sogno, se volete fare qualcosa, date il primo passo, iniziate dal piccolo e raccontateci, no? Magari, non lo so, Magari qualcuno vorrà. chissà, questo, esatto, magari questa cosa, no, magari sicuramente la mia idea del cantastorie, perché abbiamo già cambiato nome ancora una volta, è l'idea di raccontare storie o di cantare storie, insomma di raccontare storie in modo creativo, ovviamente le storie sono di tutti, ma quello che hai detto tu, partire dal piccolo. Non parte oggi con questa prima registrazione di questo podcast, che siamo in due, ma parte da io che seguo le mie necessità e cresco e mi miglioro come persona, e Paolina che tu segui le tue necessità e ti migliori come persona. Quindi parte fondamentalmente dal singolo. Poi due singoli come noi, che siamo determinati, ci mettiamo in gioco, facciamo tutto per noi in primis. Ovviamente in questo caso allora possiamo anche permetterci di condividere, perché allora da una persona determinata, un'altra persona determinata, insieme possiamo condividere, altrimenti diventerebbe solo un appoggiarsi l'uno all'altra, sperare che con l'altro fai qualcosa che da solo non fai. Invece sia io che Paolina andiamo avanti anche da soli, senza l'aiuto dell'uno dell'altro. L'aiuto dell'uno dell'altro è solo un piacere, giusto Paolina? Almeno così mi Certo, sembra. Cioè, tu non hai bisogno di sì. me come io non ho bisogno di te. Ci aiutiamo, ma facciamo lo stesso. O sbaglio? No, io sono d'accordo con te. So anche che non ci sono tante persone come noi determinate. Non hanno obiettivi, non hanno magari, proprio per la situazione che si vive, sono molto sensibili all'esterno e Sì. quindi non riescono a chiarire le idee, a chiarire i sogni, a sognare, anzi tanta gente non sogna più Sì, e quindi non purtroppo. sono determinati e non nascerà mai da loro come primi dire ok, io faccio Certo, questo a in quel prescindere caso di. Esatto. serve, sì, in quel caso l'ispirazione aiuta, come ha aiutato a me, perché io non ero così determinato tre Neanche anni fa, io. cioè quindi, Esatto. esatto. Quindi tutte le persone che ci stanno ascoltando, sappiate che chi è determinato ha trovato il suo spazio insieme a noi e ci piacerà moltissimo che condividiate tutto quello che state facendo, quello che pensate Sì. insieme a noi. Chi non è determinato, chi non riesce magari a capire qual è l'obiettivo della loro vita, comunque ascoltateci, comunque seguiteci, perché ci sarà qualcuno, una parola, un momento, un qualcosa che sveglierà in voi, sempre se avete però la voglia, e se ci ascoltate avete la voglia, Certo. di trovare qualcosa di bello per la vostra vita. Basta, è lì, basta soltanto Basta un po' di insistere, no? spolverare e scoprire. Esatto, quindi Sì, perché sappiate qualcuno. che Sì, no, qui dico, c'è un supporto. qualcuno pensa che non è determinato, dice, ah, ma tu sei determinato, io no. No, è un discorso solo transitorio. Nel senso, se Esatto. oggi non sei determinato, pazienza, sappi che se insisti. Poi ci diventi determinato. È funzionato con me, ha funzionato con te, funziona con tutti, quindi. E soprattutto anche con chi ti circondi, che Beh. classe di amici, che classe di libri leggi, che classe di programmi guardi nella TV o col cellulare. Quindi dipende molto anche il tuo, da chi ti circondi, no? Infatti parleremo nelle storie sicuramente anche di Perché. alcune storie di chi ci circonda, no? Di chi ci Esatto. viene. Comunque torniamo alle storie pratiche, altrimenti rimaniamo. Allora, altrimenti parliamo per 6 ore, qua lo so, a noi ci piace. Sì. E vorrei subito andare subito alla prima storia veloce, che è la più pratica di tutte. È una storia che si è creata grazie a questo mastermind, ovvero. Questa è la prima registrazione, ma non è la prima volta che tentiamo di farlo, giusto? L'abbiamo provato mercoledì mattina e questa storia si chiama Come può un quarto d'ora cambiarti la vita? Bene. Esatto, Paolina, scusa, vuoi mi viene da anticipare cosa è ridere. successo? Perché un quarto d'ora sembra che a volte, no, non può cambiare nulla, ma a volte aspettare un quarto d'ora può fare la differenza, no? Esatto, molto. Allora, noi avevamo l'appuntamento mercoledì alle 7, Alle 7 in quel esatto, caso. ci siamo capiti male perché sempre la comunicazione è scarsa o a metà o l'ascolto non attivo fa sì che la comunicazione non sia chiara e capita e Io noi dare ci per siamo... scontato, no? Io ho dato per Sì. scontato che tu avessi internet ovunque tu sia, no? Esatto, per fare la telefonata, la video telefonata e registrarla Su Skype, sì. su Skype. Allora, quando ti ho telefonato, ti ho detto guarda, sì. Poi mi hai telefonato e io non avevo lo Skype, quindi non ci siamo capiti. Esatto. Ah, però prima di quello, alle 7, abbiamo detto 7 o 7 e mezza? 7 Facciamo e sette, mezza, no, sette, esatto. no, sette e un quarto mi sembra, non mi ricordo, era mezz'ora o un quarto d'ora? Sette e un quarto, no? No? Sette e un Sbaglio? Sette e un quarto, quarto, oddio, diciamo, non dai, mi ricordo. sette, boh, non mi Ok. ricordo, ecco, o anche mezz'ora forse, sette e Sì. È mezza. Dici, che differenza sarà, no? Sette, sette e mezza è uguale, no? la stessa cosa. Sì, poi che è successo alle sette e mezza? Invece, ci siamo telefonati alle 7:30, tutti di corsa, che era già tardi, che non potevamo fare la telefonata, che io non avevo internet a Esatto. casa e quindi abbiamo parlato quanto? 5 minuti, Sì, poi non c'è stato tempo decidendo. nemmeno di rimediare, no? Visto che era già tutto stretto, eh? In più cosa succede? Che io ho notato che per quando sono arrivate le sette e mezza, già si è svegliato il mondo, già se sei a casa in famiglia, già le persone vicino a te si sono svegliate, già non sei più concentrato. E centrato soprattutto come sei appena sveglio, no? E Esatto. quindi Ecco abbiamo perché. visto proprio che abbiamo perso anche la concentrazione, la voglia proprio di farlo, cioè in quel momento. Incredibile. Sì, vabbè, la voglia non penso, No, la ma voglia, nel il senso che in quel dover momento fare. fatto male, insomma, non sarebbe venuto, no? Esatto, no, non avevamo gli strumenti, poi un quarto, 7:30 ormai, come dici te, già la gente comincia a uscire, non c'è più quel silenzio, quella privacy con la Sì. quale uno può fare le cose meglio, soprattutto queste cose che sono molto profonde, che condividere con gli altri, mettere attenzione in ogni parola che uno pronuncia e dare tutto di te, no? E quindi abbiamo riflettuto quanto può cambiare 15 minuti o mezz'ora Mezz'ora. nel rimandare, nel fare le cose. Tutto. Lì per lì ci siamo accorti, abbiamo detto tantissimo. È Sì. stata una riflessione senza volere, però abbiamo accolto questo insegnamento, no? Sì, quindi E è che stato. cos'è mezz'ora? Che È cos'è mezz'ora? tanto. In un giorno sembra di no, eppure quando si tratta di svegliarsi la mattina, quella mezz'ora fa, mezz'ora prima, mezz'ora dopo fa la differenza, no? Poi ce ne accorgiamo perché io e Paolina stiamo da anni cercando di svegliarci sempre più presto, no? Sì. E vedi che quando ti svegli, che fuori ancora è notte e tutti ancora dormono, c'è un'energia proprio diversa. Proprio a livello proprio energetico della Terra c'è un'energia diversa. Tant'è che tutti i grandi del mondo dicono tutti si svegliano tutti presto, tutte le persone di successo si svegliano presto la mattina. Quindi so che è difficile farlo, ma è un obiettivo che io mi sono sempre proposto e adesso oggi che mi sono svegliato tardi, mi sono svegliato alle 6, era tardi per me, nel senso che comunque è un orario. Di solito anche 5 e mezza, 5, e più presto mi sveglio e più carico sono poi nella giornata, no? C'ho proprio la spinta, non so, c'è qualcosa che spinge proprio ovviamente vai a dormire presto, stomaco leggero, insomma, ci sono tutte le accortezze, però l'obiettivo che mi sono dato nel 2012, ormai 4 anni fa, di svegliarmi presto la mattina, oggi finalmente dopo 4 anni è diventato una cosa normale, ecco. Ci vuole il tempo, Sì, ma è una gran certo. soddisfazione, no? Sì, infatti, ecco, proprio per questo noi abbiamo deciso di fare questo podcast un quarto alle 7 e piano piano penso lo faremo Sei e ancora mezza. prima, Sì, 6:30, 6:15, alle 6, perché proprio come tu dici, Stefano, più ti alzi presto, più raccogli quell'energia del giorno che non c'è dopo le Non 7, 7 c'è. e mezza. Soprattutto in E c'è città. una credenza, no? Noi siamo pieni di credenze, Perché ho ascoltato tante persone che mi criticano, ma no, ma come ti alzi a quell'ora? Troppo presto. Come Quella fai? credenza, mi alzo presto e poi sto rincoglionito tutto il giorno, non mi va, sono stanco. Sì, Invece no, no, provate piano piano ad alzarvi 5 minuti prima della vostra abitudine giornaliera, esatto, poi piano 10 piano. minuti, piano piano, e vedrete, constaterete che più vi alzate presto, più riuscite a prendere quell'energia della giornata. Sì, Quel sì, sì. silenzio del mattino dove sei con te stesso, vabbè, c'è chi ha paura di essere con se stesso nel silenzio, però se ti seguirà noi vi faremo compagnia Esatto, poi con le e nostre saremo storie capiranno, felici. con le nostre storie ognuno può capire che poi alla fine non siamo soli in queste paure, perché siamo tutti nella stessa merda, in senso giocoso, nel senso che comunque soffriamo tutte le stesse pene, chi più, chi meno, insomma, abbiamo tutte le stesse paure fondamentalmente, quindi essere accompagnati secondo me aiuta in questo senso, no? Sapere che non sei l'unico che la mattina si sveglia con qualche pensiero nella testa, ma è normale, è un'abitudine. Io adesso mi fa strano sentirmi, guardo l'orologio, sono le 7-8 perché lo teniamo e dobbiamo fare mezz'ora precisa, e mi fa strano sentirmi che a quest'ora sono lucido, sveglio e carico, no? Nel Certo. 2012, quando facevo i primi esperimenti di alzarmi presto, mi alzavo alle 9, che per me era presto. E fino a mezzogiorno non potevo proprio parlare, cioè, non potevo parlare. Cioè, è incredibile, no? Eppure, eppure siamo sempre noi. Comunque andiamo un attimo, cioè abbiamo pochissimo tempo, ma va bene così, anche questo è utile per noi. Velocemente, velocemente, velocemente, cosa vogliamo fare in questi 6 minuti che ci rimangono? Parliamo un attimo di cosa fai tu e di cosa faccio io, dai, velocemente. Cosa fai tu, Paolina? Chi sei? Sì, Perché allora Paolina? io Qual è il tuo sito? Insomma, velocemente, giusto per capire chi sì. sei, se uno vuole vedere chi sei, lo va a scoprire Ok, poi dopo. io sono Paolina Alexandra, come hai detto, sono la scrittrice di un bellissimo libro autobiografico che si chiama Il volo del colibrì. Attraverso la mia storia io voglio ispirare le persone a ricominciare a sognare. Lottare per tutto quello che amano e soprattutto affrontare le difficoltà. Quindi la mia storia per adesso è tradotta in italiano e in spagnolo per chi vuole. E Stefano anche parla spagnolo, quindi se avrete delle domande in spagnolo o volete comunque fare un podcast in spagnolo, sappiate che noi ci siamo. E, dopo tanti anni di sofferenza qui in Italia, essendo straniera, sono venuta dall'Ecuador. A Roma avevo una laurea, non è servita a niente, parlavo tre lingue, italiano, spagnolo, inglese, ma non è stato utile per niente. Io ho cominciato la mia storia, la mia carriera pulendo bagni. Quando ho conosciuto Stefano mi ha insegnato a fare la cameriera e da lì abbiamo cominciato un percorso di crescita personale grazie a un bellissimo libro che mi ha regalato lui. E oggi io sono trainer, aiuto le persone a raggiungere ogni obiettivo che loro desiderano, e attraverso workshop gratuiti o a pagamenti, attraverso corsi dove alleniamo la nostra mente a gestire i nostri pensieri e le emozioni. Quindi abbiamo tanti programmi, abbiamo tante novità che vi racconteremo man mano Se uno che vuole leggere un ascolterete. attimo una storia tua, vuole vedere questo libro, dove lo trova? Potete andare al mio sito www.ilvolodelcolibri.com e lì troverete chi sono, che faccio e gli eventi che faremo da ottobre in poi. La domanda è, Invece te, invece la Stefano? pagina Paolina Alexandra è attiva? Funziona? Sì, www.paolinaalexandra. è lo Quindi stesso, allora www.paolinaalexandra o il volo del punto it, colibrì? sì, tutte e due, Oppure tutte e le due. stesse due cose su Facebook si trovano, no? A seconda del. Sì, Paolina Alexandro Banda Costa è il mio profilo personale, la pagina Paolina Alexandra con la maiuscola. No, confermo che il libro di Paolina è veramente toccante, va letto. Non lo dico io, lo dicono le centinaia e centinaia di persone che lasciano testimonianze tutti i giorni, no? Commosse. toccate nel profondo. Poi sei stata pure in Ecuador a promuoverlo, quindi insomma. Diciamo, è un libro. Poi parleremo di questo. È un libro che ha una storia. Bene, per quanto riguarda me, invece sono un insegnante di inglese a livello internazionale, ho studiato e insegnato inglese praticamente ovunque, in Europa, in Inghilterra, nelle scuole di lingua in Inghilterra e in Italia, e ho un corso online che sì, www.inglesevero.it, dove se qualcuno vuole approcciare la lingua inglese può andare a vedere come funziona questo sistema, diciamo, rivoluzionario, che è un sistema spirituale, nel senso che è etico e dà gli strumenti per imparare l'inglese. E comunque è inutile che parlo, andate a vedere se vi incuriosisce l'idea di imparare l'inglese una volta per tutte, per davvero, no? Inglese vero, perché l'inglese è vero, non è quello dei libri, insomma, ecco. È molto pratico, molto pratico e concreto. Sì, sì, sì, di tutti i metodi, perché quando io studiavo, ho studiato sempre, no? Le lingue, vi posso assicurare che il metodo di Stefano è proprio, come lui dice, inglese vero, perché non perdete tempo nel fare cose inutili. Stefano va dritto al punto e grazie al suo metodo che lo ha studiato, lo ha ideato e soprattutto lo ha messo in pratica già da anni, quindi sappiamo che funziona, esatto, non è un esperimento. Che sì, qui parliamo di cose già funzionate. Concrete, esatto, quindi per chi vuole studiare l'inglese, avere quel qualcosa in più che ha lui, vi raccomando vivamente, visitate il sito, ascoltate anche le sue registrazioni, anche perché nel sito poi troverete comunque una registrazione gratuita, ci sono altri contenuti gratuiti, delle rubriche gratuite, c'è tantissimo materiale gratuito sulla pagina Facebook, ugualmente inglesevero.it su Facebook, e dall'altro lato sto anche nascendo con un nuovo progetto che è un progetto parallelo a questo inglesevero.it, ovvero sembra diverso ma è sempre la stessa cosa, ovvero ispirare gli altri con le mie storie, con le storie vere, e quindi Inglese Vero è la mia storia di come io da 0 a 20 anni ho iniziato a studiare inglese e oggi mi trovo a usare l'inglese tranquillamente, in modo eccellente, anche meglio di come uso l'italiano. In italiano ho delle inflessioni dialettali pazzesche, in inglese no. E la stessa cosa la faccio con la mia pagina di un cantastorie su Facebook, la trovate, o www.stefanoroganti.com. Questi sono sempre riferimenti non per voler vendere i vari siti, ma se qualcuno ci vuole conoscere, sia me che Paolina, ci avete vari strumenti, volete conoscere stefanoroganti.com, inglesevero.it, paolinaalexandra.it, ilvolodelcolibri.com, insomma. Almeno conoscete chi siamo, vedete le nostre facce e ci possiamo andare avanti in modo più intimo in queste registrazioni, in questo podcast, quindi credo che sia utile ricordare chi siamo. Ci abbiamo 2 minuti perché l'orologio dice 7:15, ma abbiamo iniziato con 2 minuti di ritardo e direi di rimanere fedeli nei 30 minuti precisi, no? Quindi poi sarà a noi. Come lo chiamiamo questo podcast? Lo chiamiamo Morning Mastermind, come lo possiamo chiamare? Dai, facciamo questo minuto e mezzo, cerchiamo un nome. Morning Inspiration, no? Morning. Comunque sapremo. Noi racconteremo storie e chi ci ascolterà e vorrà ci racconterà, racconterà la sua storia, quindi se dobbiamo creare magari una mail o diamo la tua o la mia, così sì, quando diciamo che ci sarà per chi ascolta la possibilità poi di registrarsi al podcast in modo che riceverete poi le registrazioni eccetera eccetera. Spero vivamente che ci sarà anche la possibilità di seguirlo in diretta, cosa che oggi non c'è, perché chi è un vero guerriero come noi si alzerà la mattina alle 6 per ascoltarci, insomma sarà una cosa bellissima. Esatto. Sappiate che non siate soli, no, siamo noi qui, siamo. Per qualsiasi cosa visitate i nostri siti, se avete qualche domanda fate una mail, esatto. Vi aspettiamo la prossima settimana. Sì, con tanto di novità, se ci saranno sicuramente. Venerdì sì. Alle 6:15. Un'altra cosa, o le 6:30, decideremo, perché vedo che già alle 7:15 già si comincia a svegliare l'aria. Sì. Qua già. L'ultima cosa, chiudo con Una delle istruzioni della via del guerriero di luce di Paolo Coelho, che mi è piaciuta molto, che per chi la vuole cercare è la numero 71, pagina 71. Chiudo con questa, poi chiudiamo la telefonata. Sì, va bene. Va bene, il guerriero sa che nessun uomo è un'isola, non può lottare da solo. Quale che sia il suo piano, dipende da altri uomini. Ha bisogno di discutere la sua strategia, di chiedere aiuto e, nei momenti di riposo, di avere qualcuno a cui raccontare le storie di battaglia intorno al fuoco. Ma egli non permette che gli altri confondano il suo cameratismo con l'insicurezza. È trasparente nelle sue azioni e segreto nei suoi piani. Un guerriero della luce danza con i suoi compagni, ma non attribuisce a nessuno la responsabilità dei propri passi. Bene, questo è il nostro fuoco in cui raccontiamo le nostre storie di battaglia. Ciao Paolina, buona giornata. Un Ciao, ciao Stefano, ciao a tutti, vi bacione. auguro una giornata stupenda. Un Ci bacio sentiamo. a Ciao tutti ciao voi. ciao ciao. Sì, ciao, ciao, Ciao. ciao.